Attinenza con la realtà, allora è un momento strano. Quando io sento parlare del governo italiano, io mi sento offeso. Ma chi sono questi qui? Chi si sente rappresentato da uno così? Ecco perché si chiama Reset.